Parigi, 16 dicembre 1809. È stata una cosa atroce, penosa e tormentosa per tutti coloro che vi hanno dovuto partecipare. L'imperatore ha voluto che fossero riuniti tutti i componenti della sua famiglia, i membri del governo, della corte, i suoi marescialli, e in presenza loro ha divorziato ieri da Giuseppina. Per la prima volta, dopo un lungo intervallo, Giambattista ed io abbiamo ricevuto un invito alle Tuilerie. Dovevamo trovarci alle 11 antimeridiane nella sala del trono. Alle 10:30 ero ancora a letto. Succeda quel che vuole, io non mi muovo di qui. Così avevo deciso. Era una giornata fredda e grigia. Chiusi gli occhi e feci finta di dormire. Avvenga quel che avvenga. Che cosa? Sei ancora a letto? Era la voce di Giambattista. Aprì gli occhi e vidi l'uniforme di gala. L'alto collo ricamato d'oro scintillava, le decorazioni sfavillavano. Sono infreddata, ti prego di scusarmi presso il maresciallo di corte, dissi soltanto. Sì, come quella volta prima dell'incoronazione. L'imperatore ti manderà di nuovo il suo medico personale. Alzati subito e mettiti in ordine, altrimenti arriveremo in ritardo. Oh, non credo che questa volta l'imperatore mi manderà il suo medico, dissi tranquilla. Potrebbe darsi che nel momento che Giuseppina leggerà la sua dichiarazione di consenso al divorzio, abbia a guardarsi intorno e che i suoi occhi cadano su di me. Penso che l'imperatore almeno le vorrà risparmiare questa vista. Guardai Giambattista come per supplicarlo. Mi capisci? Non posso sopportare questo mio trionfo così a buon mercato e così brutto e detestabile. Giambattista assentì, rimani a letto, ragazzina. Tu hai un grosso raffreddore e abbiti riguardo. Vidi scomparire il mantello di velluto azzurro che ricade in pesanti pieghe sulle spalle. Poi richiusi gli occhi. Quando scoccarono le 11 mi tirai le coperte fin sopra il mento. Anch'io invecchio, pensavo, anch'io avrò un giorno delle piccole rughe intorno agli occhi e non potrò più avere bambini. Nonostante il mio piumino d'oca, sentivo freddo. Chiamai Maria e la pregai di portarmi del latte caldo. In fin dei conti ero infreddata. Ella mi portò il latte e sedette accanto al mio letto, tenendo la mia mano nella sua. Prima ancora che suonassero le 12, Giambattista ritornò e con lui venne Giulia. Giambattista si allentò subito, l'alto colletto ricamato d'oro, e mormorò: È stata la scena più penosa che io abbia mai veduta. L'imperatore esige un po' troppo dai suoi marescialli. E poi uscì dalla mia camera. Maria scomparve perché era entrata Giulia, è ancora sempre stizzita con lei, ma Giulia non è più ormai che una regina senza regno. Gli spagnoli hanno definitivamente scacciato Giuseppe, ma nessuno a Parigi deve ammetterlo. Abbiamo dovuto disporci tutti nella sala del trono, ciascuno abbia assegnato un posto secondo il suo grado. Noi, voglio dire, la famiglia imperiale, ci trovavamo proprio davanti ai due troni. Poi insieme entrarono l'imperatore e l'imperatrice e dietro di loro il gran cancelliere Conte di Regnault. E il Conte di Regnault si mise vicino all'imperatrice. L'imperatrice era come sempre vestita di bianco e incipriata da pallida, accomodata proprio da martire. Giulia, non parlare in questo modo di Giuseppina, deve essere stata per lei una cosa terribile. Certo che per lei è stata una cosa terribile, ma io non l'ho mai potuta soffrire. Non le posso perdonare quel che ha fatto a te allora. Ma non sapeva chi ero e non ne ha colpa, dissi in fretta. E che cosa è avvenuto poi? Si è fatto un silenzio di tomba. L'imperatore ha incominciato a leggere un documento. Vi si diceva che solo il buon Dio sa quanto gli sia grave questo passo e che nessun sacrificio è troppo grande per lui quando si tratta del bene della Francia e che Giuseppina ha lietato la sua vita per 15 anni, che lui stesso l'ha incoronata di sua mano e bla bla bla e che essa porterà sempre il titolo di imperatrice dei francesi. E che faccia aveva quando leggeva tutto questo? Ah, lo sai, la faccia che fa adesso nelle cerimonie ufficiali, un volto di pietra. Talleyrand lo chiama la maschera di Cesare. Ha inalberato la maschera di Cesare e leggeva così in fretta che si stentava quasi a capire tutto quello che diceva. Voleva sbrigarsela il più presto possibile. E poi? Ecco, poi la faccenda si è fatta terribilmente penosa. Fu presentato un documento all'imperatrice ed ella incominciò a leggere. Da principio la voce era così bassa che non se ne capiva neppure una parola. Poi improvvisamente lei scoppiò in lacrime e porse il foglio a Regnault. Regnault dovette continuare lui la lettura. Oh, è stato uno spettacolo atroce. E che cosa si diceva nel suo documento? Oh, che lei, con l'assenso del suo amato marito, riconosce di non poter più avere figli e che il bene della Francia impone a lei il maggiore sacrificio che mai sia stato chiesto ad una donna. Che lei lo ringrazia della sua bontà ed è fermamente convinta che questo divorzio è necessario perché la Francia possa essere retta da un discendente diretto dell'imperatore. Ma lo scioglimento del matrimonio non potrà mai mutare i sentimenti del suo cuore. Tutto questo Regnault lo ha biascicato come se si trattasse di un'ordinanza qualunque e lei intanto singhiozzava ininterrottamente. Uno strazio. E poi? Poi noi, come membri della famiglia, ci siamo recati nel gabinetto grande dell'imperatore. Napoleone e l'imperatrice hanno firmato l'atto di divorzio e dopo di loro abbiamo firmato noi come testimoni. Ortensia e Eugenio hanno condotto via la loro madre piangente e Gerolamo ha detto: "Io ho fame". L'imperatore lo ha guardato in una maniera che se avesse voluto schiaffeggiarlo davanti a tutti noi lo avrebbe fatto. Poi si è voltato e ha annunciato: "Credo che nel salone sia stata apparecchiata una colazione per la mia famiglia, vi prego di scusarmi". Domattina lei lascia le Tuilerie e si fa condurre la Malmaison. L'imperatore le ha regalato la Malmaison e ha pagato tutti i suoi debiti. Inoltre le ha assegnato una rendita annua di 3 milioni di franchi. 2 milioni li pagherà lo Stato e 1 milione l'imperatore. In più Napoleone le regala 200.000 franchi per le piante nuove che lei ha già ordinato per la Malmaison e 400.000 franchi per la collana di rubini che le sta preparando un gioielliere. E Ortensia andrà con lei alla Malmaison? Beh, probabilmente domattina l'accompagnerà, ma e la conserva alla sua residenza alle Tuileries. E suo figlio? Eugenio resta viceré d'Italia. Si dice che volesse dimettersi, ma l'imperatore non glielo permette. In fin dei conti, lui ha adottato i figli di Giuseppina, figurati. Ortensia crede ancora che il suo primogenito abbia a diventare principe ereditario. È una pazzia. L'Asburgo, che l'imperatore sposerà, ha 18 anni e gli metterà al mondo una nidiata di figli. Le Asburgo sono così feconde. Si alzò. Adesso devo andarmene, cara. Dove? Torno alle Tuilerie. I Bonaparte si impermaliranno se non faccio festa con loro. E si raddrizzò la corona. Addio, Desirée. Guarisci presto. Io stetti ancora lungamente coricata, con gli occhi chiusi. Un Bonaparte non è un partito adatto ad una figlia di Francesco Clarì. Giulia si è abituata ai Bonaparte e alle loro corone. Dio mio, com'è cambiata! Ne ho io la colpa? Sono stata io a portare i Bonaparte in casa nostra, nella semplice e pulita casa borghese di mio padre. Non l'ho fatto apposta, papà. No. Accanto al mio letto venne collocato un tavolino. Giambattista ha voluto desinare con sua moglie malata. Dovetti trascorrere a letto l'intera giornata e mi addormentai già prima di sera. Perciò mi spaventai molto quando improvvisamente comparvero presso il mio letto Marie e Madame Laflotte. La regina Ortensia chiede di essere ricevuta. Adesso? E che ora è? Domandai sconcertata. Sono le 2 del mattino. Ma che cosa vuole? Non le avete detto che sono ammalata, Madame Laflotte? Madame Laflotte per l'agitazione alzò la voce. Certamente, ma la regina d'Olanda non si può mandar via. Chiede di essere ricevuta lo stesso. Sht, non gridate così, svegliate tutta la casa. Mi fregai gli occhi per scacciarne il sonno. La regina d'Olanda è molto agitata e piange, mi disse la Flotte. Aveva indosso una vestaglia elegantissima, con i risvolti d'ermellino alle maniche. Probabilmente Fouché le paga i conti della sarta, pensai. Maria, dà una tazza di cioccolata calda alla regina d'Olanda, la calmerà, dissi. Madame Laflotte, dite alla regina che non mi sento proprio bene e che non posso riceverla. Yvette sta già preparando la cioccolata per la regina, disse Maria, e si serrò intorno al collo il mantello di lana scura che si era buttato sulla sua rustica camicia di lino. E adesso tu ti alzi. Ho già detto alla regina che l'avresti ricevuta subito. Vieni, ti aiuterò, non farla aspettare. Piange. Ah, dite a Sua Maestà che mi affretterò, disse la Flotte. Maria mi portò un abito semplice. È meglio che tu ti vesta, suggerì. Ti pregherà di accompagnarla. Ma dove? Vestiti, avranno bisogno di te, probabilmente alle Tuilerie, disse Maria. Principessa, mi manda mia madre, vi prega di avere pietà e di venire da lei, singhiozzò Ortensia quando le comparvi davanti. Intanto le lacrime le scorrevano giù ai lati del suo lungo naso. Il naso era rosso dal pianto, le ciocche biondo chiare le cascavano sulla fronte. Ma io non posso fare niente per vostra madre, madame, dissi. e mi sedetti accanto a lei. L'ho già detto alla mamma, ma lei ha insistito perché io venissi proprio da voi. Proprio da me? Sì, proprio da voi, e non so neppure perché, singhiozzò Ortensia nella tazza della cioccolata. Ma e adesso, nel cuore della notte? L'imperatrice non può dormire, gemette Ortensia, e non vuole vedere nessuno, soltanto voi. Ebbene, verrò con voi, madame, sospirai. Sulla porta c'era già Maria, mi porse cappello, mantello e manicotto. I salotti dell'imperatrice erano debolmente illuminati, vi danzavano delle ombre, io urtavo nei mobili, ma quando Ortensia aprì la porta della camera da letto di Sua Maestà, fummo assaliti da un'ondata di luce. Su tutti i tavoli, sul camino, perfino sul pavimento c'erano dei candelabri. Grossi bauli spalancati stavano qua e là già riempiti a mezzo. Dappertutto vi erano capi di vestiario, cappelli, guanti, abiti da cerimonie e da casa in un enorme disordine. Qualcuno doveva aver vuotato alla rinfusa un cofano di gioielli. Un diadema di brillanti sfavillava sotto una poltrona. L'imperatrice era sola, stava a bocconi, con le braccia aperte sul largo letto. La sua esile schiena sussultava in un singhiozzo disperato. Gemeva, tenendo la bocca sui guanciali. Dalla stanza vicina giungevano sommesse voci femminili. Probabilmente nello spogliatoio si stavano facendo i bagagli, ma Giuseppina era sola. «Mamma, ti ho condotto la principessa di Pontecorvo», disse Ortensia. Giuseppina non si mosse. Le sue unghie agguantarono ancora più convulsamente la coperta di seta. «Mamma», ripeté Ortensia, «la principessa di Pontecorvo». Con decisione mi accostai al letto, afferrai le spalle delicate, scosse dai singhiozzi e voltai Giuseppina. Adesso stava supina e mi guardava fissa con gli occhi gonfi. Mi spaventai, è vecchia, dissi tra me. È diventata vecchia in questa notte. Désirée, balbettarono le sue labbra. Poi le sgorgarono nuove lacrime. Incessanti le scorrevano giù per le guance non truccate. Sedetti sull'orlo del letto e cercai di prenderle le mani. Subito le sue dita si aggrapparono alle mie. La pallida bocca era socchiusa. Vi scorgevo i vuoti dei denti mancanti. Le sue guance erano sgualcite, come se fossero di carta velina. Le lacrime avevano lavato la smaltatura del belletto e si intravedevano dei grossi pori. I riccioli infantili erano molto radi e aderivano bagnati alle tempie, e il mento, quel mento di bambina seducente, un po' aguzzo, era divenuto flaccido e rivelava un principio di pappagorgia. Spietatamente le innumerevoli candele riversavano la loro luce su quel povero volto. Chissà se Napoleone l'ha mai vista senza belletto. Ho cercato di fare i miei bagagli, piagnucolò Giuseppina. Vostra Maestà deve prima di tutto dormire, dissi io. E a Ortensia, spegnete tutte queste candele, madame. Ortensia obbedì, come un'ombra scivolava da candelabro a candelabro. Da ultimo tremolò soltanto un lumino da veglia. Le lacrime di Giuseppina si erano inaridite. Brevi, violenti singulti la scotevano. Questo era peggio del pianto. Adesso Vostra Maestà deve dormire, ripetei e feci l'atto di alzarmi, ma le sue dita non mi lasciavano. Stanotte dovete stare con me, Desirée, dissero le sue labbra sussultanti. Voi sapete meglio di tutti quanto mi ama, più di qualunque altra. Non è vero, soltanto me, soltanto me. Ah, era dunque per questo che lei mi voleva vedere questa notte, perché io lo so più di qualunque altra. Se potessi almeno fare qualche cosa per lei, poveretta. Sì, soltanto voi, madame. Tutte le altre le ha dimenticate quando vi ha conosciuta. Me, per esempio. Madame se ne ricorda ancora? Un sorriso di compiacimento le guizzò intorno alla bocca. Voi mi avete buttato addosso un bicchiere di champagne. Non si è più potuto smacchiarlo. Era un abito di mussola trasparente, bianco con guarnizioni rosse, e allora vi ho resa infelice, piccola Desirée. Perdonatemi, non lo facevo apposta. Accarezzai la sua mano, la feci parlare dei tempi trascorsi, quanti anni aveva allora, pressappoco quanti ne ho io adesso. Mamma, starai tanto bene alla Malmaison, hai sempre considerato la Malmaison come la tua vera casa, disse Ortensia. Giuseppina sussultò. Chi lacerava così i suoi ricordi? Ah, sua figlia! Ortensia resta alle Tuilerie, disse Giuseppina cercando i miei occhi. Il piccolo sorriso compiaciuto si era spento e la appariva vecchia e stanca. Bonaparte desidera che io parta domattina, bisbigliò Giuseppina. Ha già dato ordine agli operai che dovranno nella mia stanza. Il resto della frase si smarrì in un pianto dirotto. Io mi rivolsi ad Ortensia. Il dottor Corvisart non ha lasciato un sonnifero per sua maestà. Certo, ma la mamma non vuole prendere niente. La mamma teme che la si voglia avvelenare. Guardai Giuseppina. Giaceva di nuovo bocconi e le lacrime le scorrevano sul volto tumefatto. Lo ha sempre saputo che non posso più avere dei bambini, mormorava. Gliel'avevo detto, perché una volta ne aspettavo uno da Barrà. Si interruppe, poi improvvisamente gridò. E quell'asino d'un medico dal quale mi portò Barrà mi ha rovinata! Rovinata! Rovinata! Ortensia, dite subito ad una cameriera di portare una tazza di tè e poi andate a coricarvi anche voi. Io resterò qui finché Sua Maestà si sarà addormentata. Dov'è il soporifero? Ortensia frugò tra le boccette e i vasetti di creme della toeletta e alfine mi porse un boccettino. 5 gocce, ha detto il dottor Corvisart. Grazie e buonanotte, madame. Poi tolsi a Giuseppina il suo abito bianco gualcito, sfilai dai suoi piccoli piedi i sandali dorati, le posi addosso una coperta. Una cameriera portò del tè, le presi dalla mano la tazza e la rimandai subito via. Poi, con cautela, versai il contenuto della boccetta nel tè. Erano 6 gocce. Tanto meglio, pensai. Giuseppina si sollevò, ubbidiente, bevve a sorsi avidi, affrettati. Ha il sapore di tutte le cose della mia vita, molto dolce con una punta d'amaro. Sorrise e di colpo parve la Giuseppina che avevo conosciuta fino a quel momento. Poi si lasciò ricadere sui cuscini. Questa mattina voi non c'eravate alla cerimonia ufficiale, sussurrò stancamente. No. Ho pensato che preferiste non vedermi. Sì, è stato meglio così. Seguì una breve pausa. Respirava meglio. Voi e Luciano siete i soli Bonaparte che non vi abbiano assistito. Oh, ma io non sono una Bonaparte, osservai. Mia sorella Giulia è sposata a Giuseppe e la parentela non va più in là di così. Non abbandonatelo, Desirè. Chi, maestà? Bonaparte! Le gocce parevano farla vaneggiare un poco, ma valsero a calmarla. Io accarezzavo la sua mano uniformemente, senza pensare. Accarezzavo la mano dalle vene rigonfie, la mano di una donna gracile, invecchiata. Se perderà il suo potere, e perché non dovrebbe perderlo? Tutti gli uomini che ho conosciuto hanno perduto il loro potere, qualcuno anche la testa, come il mio Beauharnais, buon'anima. Vedete, se perderà il suo potere. Gli occhi le si chiusero. Io lasciai andare la sua mano. Oh, restate con me, ho paura! Mi siederò nella stanza attigua e aspetterò che Vostra Maestà abbia terminato il suo sonno. Poi accompagnerò Vostra Maestà alla Malmaison. Oh sì, alla Malmaison. Dormiva. Spensi la candela, passai nel salotto attiguo. Lì adesso era buio pesto, tutte le candele si erano consumate. Mi avvicinai tastoni alla finestra e scostai le tende pesanti. Era spuntato un grigio mattino d'inverno. In quella fioca luce trovai una larga poltrona. Ero stanca morta, il capo mi doleva atrocemente. Mi sfilai le scarpe, sollevai le gambe e cercai di dormire. Le cameriere, a quanto sembrava, avevano finalmente cessato di fare i bagagli e il silenzio era assoluto. Improvvisamente sobbalzai. Qualcuno entrava nella stanza. Il bagliore di una candela sfiorò la parete. Si udì un lieve tintinnio di speroni. La candela venne deposta sul camino. Cercai, oltre l'alta spalliera della poltrona, di guardare verso il camino chi mai entrava senza bussare nel salotto attiguo alla camera dell'imperatrice. Ah, lui, naturalmente. Stava in piedi, davanti al camino, e il suo sguardo scorreva attento per la stanza. Senza volerlo mi mossi, subito egli si volse la faccia verso la mia verso la poltrona. C'è qualcuno qui? Sono io, sire. Chi io? La sua voce era stizzosa. La principessa di Pontecorvo, balbettai, e cercai di tirare avanti le gambe per sollevarmi e di trovare le mie scarpe, ma le gambe mi si erano intorpidite e mi prodevano terribilmente. La principessa di Pontecorvo? Incredulo mi si avvicinò. Perdonate, maestà, mi sento tutta indolenzita e non riesco neppure a trovare le mie scarpe. Un momento, prego, balbettai. Finalmente trovai le scarpe, mi alzai e mi sprofondai nella riverenza di etichetta. Dite un po', principessa, che cosa fate qui a quest'ora? Domandò Napoleone. Oh, anch'io me lo domando, sire, dichiarai e mi fregai gli occhi. Egli prese la mia mano ed io, insonnolita, mi drizzai. Sua maestà l'imperatrice mi ha pregato di tenerle compagnia questa notte. Sua maestà finalmente si è addormentata, mormorai, e poiché lui non diceva nulla ed io avevo l'impressione di averlo indispettito, aggiunsi: Vorrei bene ritirarmi per non disturbare vostra maestà, se solo sapessi da che parte uscire da questo salotto. Non vorrei svegliare l'imperatrice. Tu non mi disturbi, Eugenia, siediti pure di nuovo. Si era fatto più chiaro. Una luce grigia, scialba, avvolgeva adesso tutti i mobili, i quadri, le tappezzerie di seta pallida, a righe. Mi sedetti di nuovo e cercai affannosamente di svegliarmi davvero. Non potevo dormire, disse lui di punto in bianco. Volevo dire addio a questo salotto. Domani, questa mattina, verranno gli operai. Io annuii. Era assai penoso per me essere presente a questo commiato. Guarda, è lei. Non la trovi bella, Eugenia? E mi presentò una tabacchiera sulla quale era dipinto un ritratto. Poi rifletté un momento, tornò in fretta presso il camino, prese il candeliere e tenne il ritratto nella gialla luce vacillante. Era un tondo viso di giovane fanciulla dagli occhi di porcellana azzurra e con le guance di un rosato acceso. Nell'insieme un viso molto rosa. Oh, mi è molto difficile giudicare queste miniature delle tabacchiere, dissi. Trovo che sono tutte uguali. Maria Luisa d'Austria è molto bella, dicono. Aprì la tabacchiera, si portò il tabacco sotto il naso, aspirò forte, poi si premette il fazzoletto sulla faccia. Una maniera assai elegante e ben studiata di fiutare il tabacco. Fazzoletto e ritratto scomparvero di nuovo nella tasca dei suoi pantaloni. Egli mi fissò con uno sguardo penetrante. Non riesco a capire come vi trovate qui, principessa. Poiché non si sedeva, feci per alzarmi di nuovo. Egli mi spinse giù sulla poltrona. Ah, oh, tu sei stanca a morte, Eugenia, lo vedo bene. Ma che cosa fai qui? L'imperatrice mi ha voluta vedere. Io ricordo a Sua Maestà. Trangugiai, mi tornava così penoso dir questo. Ecco, io ricordo a Sua Maestà l'imperatrice quel pomeriggio nel quale ella si fidanzò col generale Bonaparte. È stato un tempo assai felice nella vita dell'imperatrice. Egli annuì, poi si sedette sul bracciuolo della mia poltrona. Sì, è stato un momento molto felice nella vita di Sua Maestà. E nella vostra vita, principessa? Oh, io mi sentii molto infelice, sire, molto. Ma è passato tanto tempo e la ferita è guarita da un pezzo, mormorai. Ero tanto stanca e avevo tanto freddo che dimenticai chi sedesse accanto a me. Solo quando la testa mi scivolò da un lato e cadde sul suo braccio, sobbalzai spaurita. Oh, scusate, maestà! Lascia pure lì la tua testa. Almeno non sarò così solo. Cercò di cingermi col braccio le spalle, di attirarmi a sé, ma io mi irrigidii e appoggiai la testa alla spalliera della poltrona. In questo salotto sono stato molto felice, Eugenia. Io non mi mossi. Gli Asburgo sono una delle più antiche famiglie regnanti nel mondo, lo sai? Disse improvvisamente. Una granduchessa d'Austria è degna dell'imperatore dei francesi. Io mi drizzai per vedere la sua faccia, ma diceva sul serio che davvero un Asburgo sia quel che ci vuole per il figlio del causidico corso Bonaparte? Guardò di nuovo fisso davanti a sé, poi domandò di colpo: Sai ballare il valzer? Feci cenno di sì. Me lo puoi insegnare? Tutte le austriache ballano il valzer, mi hanno detto a Vienna, ma a Schönbrunn allora non avevo tempo di occuparmene. Fammi vedere come si balla il valzer. E scossi il capo. Non ora, non ora e non qui. Il suo volto si contrasse. Ora e qui. Spaventata accennai alla porta che menava alla stanza da letto di Giuseppina. Sire, la svegliate! Ma lui non cedette, abbassò soltanto la voce. Fammi vedere, subito, è un ordine, principessa. Io mi levai in piedi. Senza musica è una faccenda seria, dissi soltanto. Poi incominciai a girare lentamente. Un, due, tre. Un, due, tre. Così si balla il valzer, maestà. Ma lui non mi badava. Era ancora seduto sul bracciuolo della poltrona e guardava fisso davanti a sé. E un, due, tre. E un, due, tre. Dissi io a voce un po' più alta. E un, due, tre. Ora egli alzò gli occhi. La sua faccia massiccia appariva floscia e grigia nella scialba luce mattutina. Ero così felice con lei, Eugenia. Mi fermai e lo guardai sconcertata. Ma è proprio necessario, maestà? Non posso fare la guerra su tre fronti in una volta. Devo reprimere le rivolte del sud, difendere la costa della Manica e l'Austria. Si prese il labbro inferiore tra i denti. L'Austria mi darà tregua quando avrò sposato la figlia dell'imperatore. Il mio amico, lo zar di Russia, sta armando, cara principessa. E del mio amico, lo zar di Russia, non potrò sbrigarmi se non quando l'Austria non mi lascerà definitivamente tranquillo. Lei sarà il mio ostaggio, il mio dolce ostaggio 18enne. Tirò di nuovo fuori la tabacchiera e contemplò dilettosamente il ritratto rosa. Poi, di scatto, si levò e guardò ancora una volta con grande attenzione intorno nella stanza. Era così qui, mormorò, e sembrava che si volesse imprimere per sempre nella mente le strisce della tappezzeria e la sagoma del fragile divano. Quando si voltò per andarsene, io feci la riverenza di corte. Allora d'improvviso mi posò la mano sui capelli e mi carezzò, distratto. Posso fare qualche cosa per voi, cara principessa? Sì, se Vostra Maestà vorrà avere la bontà di mandarmi una prima colazione. Caffè forte, se è possibile. Scoppiò a ridere. Il suo riso ebbe un suono giovane. Ridestò dei ricordi, poi in fretta egli uscì dal salotto. Alle 9 del mattino accompagnai l'imperatrice per l'uscita posteriore delle Tuilerie. Ci aspettava la sua carrozza. Lei portava una delle tre preziose pellicce di zibellino che l'imperatore aveva ricevuto in dono a Erfurt dallo zar di Russia. La seconda l'aveva messa sulle spalle di Paulette. Nulla si sa del destino della terza. Giuseppina era truccata con grande cura e aveva molta cipria sotto gli occhi. Il suo viso appariva dolce e solo un pochino appassito. La condussi in fretta giù per la scala. Nella vettura già ci attendeva Ortensia. Avevo sperato che Bonaparte venisse a prendere congedo da me, disse Giuseppina, e si sporse un poco di fuori per osservare le file delle finestre delle Tuilerie. La carrozza si mise in moto. Dietro a ciascuna finestra si vedevano dei volti curiosi. L'imperatore è andato questa mattina prestissimo a Versailles, a cavallo. Ha intenzione di trascorrere alcuni giorni presso sua madre, disse Ortensia. Per tutto il tragitto fino alla Malmaison non dicemmo altro. Parigi, fine giugno 1810. Sembra davvero un salsicciotto, purtroppo. Voglio dire, la nuova imperatrice. Le feste per le nozze sono passate e l'imperatore, a quel che si dice, ha speso 5 milioni di franchi per addobbare le camere di Maria Luisa alle Tuilerie. Prima fu mandato a Vienna il maresciallo Berthier a chiedere la mano della principessa. Poi si celebrarono le nozze a Vienna e l'imperatore si fece rappresentare dallo zio della fidanzata, l'arciduca Carlo, che tempo addietro ha sconfitto Napoleone presso Aspern. Da ultimo si mandò Carolina alla frontiera a ricevere la consorte dell'imperatore. A Courcelles le carrozze delle due dame furono fermate da due cavalieri sconosciuti. Pioveva a dirotto e i due sconosciuti spalancarono lo sportello ed entrarono in vettura. Maria Luisa naturalmente gettò un grido, ma Carolina la tranquillizzò. È soltanto vostro marito, l'imperatore, cara cognata. E mio marito, quel fanciullone di Murat. Pernottarono nel castello di Compiègne e Napoleone, la mattina seguente, fece la sua prima colazione già nel letto di Maria Luisa. Quando lo zio Fesch celebrò a Parigi il matrimonio della coppia imperiale, la loro notte nuziale era già trascorsa da un pezzo. Durante i primi mesi l'imperatrice non dovette dare grandi ricevimenti. Per chissà quale motivo Napoleone crede che le donne restino più facilmente incinte quando non si strapazzano molto. Ma alla fine non poté procrastinare di più e ieri fummo invitati con tutti gli altri marescialli, generali, ambasciatori, dignitari, principi genuini e spuri alle Tuilerie per essere presentati alla nuova imperatrice. A quel che pare in Austria si è convinti che le donne maritate di fresco debbano vestirsi di rosa. Maria Luisa era stretta in un attillato abito rosa e tutta coperta di brillanti. È molto più alta dell'imperatore e, nonostante la sua giovinezza, ha un seno abbondante che ella visibilmente costringe. Ha la faccia rosea, pienotta e quasi senza belletto. Ha un aspetto molto naturale accanto alle dame di corte, che sono tutte dipinte, ma un po' più di cipria sul naso lucido e sulle guance rosse non avrebbe guastato. I suoi occhi sono azzurro chiari, grandi, un po' sporgenti. Ha dei bei capelli d'un castano dorato, foltissimi e rialzati in un'artistica acconciatura. Forse che qualcuno ricorda ancora i lievi, infantili riccioli di Giuseppina? Maria Luisa sorrideva ininterrottamente. Sembrava che ciò non la faticasse, ma in fin dei conti è figlia di un vero imperatore ed è stata educata a sorridere a 2000 persone riunite. Ha visto partire le truppe di suo padre per la guerra contro Napoleone, ha assistito all'occupazione di Vienna. Deve aver odiato fin da bambina l'imperatore molto tempo prima di vederlo. E poi suo padre l'ha maritata a Napoleone. A Compiègne è stata, siamo giusti, né più né meno che violentata. Una ragazza giovane che era stata educata in un castello da attempate governanti. Certo, Maria Luisa non deve aver fatto mai altro che sorridere. La coppia imperiale ci stava davanti. Io feci il mio inchino di corte. E questa è la principessa di Pontecorvo, la cognata di mio fratello Giuseppe. Udì la voce annoiata di Napoleone. Il principe di Pontecorvo è maresciallo di Francia. Baciai il suo guanto profumato al gelsomino. Avrei giurato prima che ella preferisce il gelsomino a tutti gli altri profumi. I suoi occhi azzurro chiari incontrarono i miei, sembravano di porcellana e sorridevano senza espressione. Quando la coppia imperiale ebbe preso posto sui due troni, l'orchestra suonò un valzer viennese. Giulia mi venne incontro, affascinante, e intanto esaminava il mio abito nuovo. Lei era in velluto purpureo con i gioielli della corona di Spagna. La corona, naturalmente, le stava di sbieco. «Ho male ai piedi!» si lagnò. «Vieni nella sala attigua, potremo sederci!»